Benvenuti a Il Confronto. Allora, oggi ci addentriamo in una delle questioni terminologiche più accese nel campo dell'intelligenza artificiale, l'uso della parola allucinazione per descrivere gli errori dei grandi modelli linguistici. Il nostro spunto di partenza è un'affermazione piuttosto netta. Definire questi errori allucinazioni è un approccio puramente antropocentrico. Esatto. E da qui la domanda diventa: questa metafora, che insomma paragona un processo statistico a un'esperienza psicologica umana, è un ostacolo? Cioè, è fuorviante per la nostra comprensione o è, un'etichetta imperfetta ma forse utile? Proprio così. E la mia posizione è semplice. Sono completamente d'accordo con la tesi di fondo. Chiamarle allucinazioni è secondo me un errore di categoria che ci porta fuori strada. E io, invece, pur accettando la premessa, cioè che il termine sia tecnicamente impreciso, prenderò la direzione opposta. Sosterrò che allucinazione è una metafora funzionale, forse la migliore che abbiamo, perché cattura in modo ineguagliabile l'esperienza dell'utente e paradossalmente potrebbe persino aiutarci a essere più cauti. Guarda, parto proprio dalla tesi del nostro materiale perché la trovo ineccepibile. Usare la parola allucinazione è un errore categoriale. In medicina, in psicologia, un'allucinazione è un'esperienza percettiva in assenza di uno stimolo esterno. Implica una coscienza, un soggetto che vive un'esperienza. Un modello linguistico non ha nulla di tutto questo. Non ha coscienza, non ha percezioni, non ha un'esperienza soggettiva del mondo. Come sottolinea il materiale, questi sistemi generano risultati su base puramente statistica. Non credono a ciò che dicono, non vedono cose che non ci sono, semplicemente calcolano la sequenza di parole più probabile basandosi su miliardi di esempi. L'output dal punto di vista della macchina è semanticamente vuoto, è solo una catena di token, di numeri. Appiccicare un'etichetta così, così carica di significato psicologico come allucinazione, oscura questa realtà meccanica. È un modo per umanizzare, pericolosamente, un processo che è, in fin dei conti, solo matematica molto complessa. Ok, non metto in dubbio neanche per un secondo la descrizione tecnica. Certo che è un processo statistico, nessuno lo nega, ma il punto è che il linguaggio che usiamo per le nuove tecnologie è quasi sempre basato su metafore. Pensa all'interfaccia del tuo computer, la chiami scrivania o desktop, ma non è un mobile di legno. Salvi file in cartelle, ma non sono di cartone. Navighi in internet, ma non sei su una barca. Sono tutte metafore tecnicamente false, ma funzionalmente potentissime perché ci permettono di capire e usare strumenti complessi in modo intuitivo. Ecco, io vedo il termine allucinazione esattamente in questa luce. La sua forza non sta nel descrivere il meccanismo interno, ma nel descrivere perfettamente l'effetto che produce sull'utente. Ma è un effetto che rischiamo di fraintendere, proprio a causa della metafora. Fammi finire il punto. Pensa a un caso concreto. Un giovane avvocato chiede a un LLM di trovare precedenti legali per un caso. Il sistema risponde con sicurezza, cita 5 sentenze, complete di nomi, date, numeri di protocollo. L'avvocato li inserisce nella sua memoria legale, ma il suo supervisore, più esperto, le controlla e scopre che sono tutte completamente inventate. Non esistono. Ecco, come lo chiami questo fenomeno? Artefatto statistico? Errore fattuale indotto dal modello? Nessuna di queste espressioni cattura la natura quasi diabolica di un errore così plausibile e ben confezionato. Allucinazione invece lo fa. Comunica istantaneamente l'idea di qualcosa che sembra reale, articolato, coerente, ma che è sganciato dalla realtà. Ed è qui che non sono d'accordo con l'idea che l'output sia semanticamente vuoto. È vuoto per la macchina, certo, ma per quell'avvocato quelle parole erano cariche di un significato devastante. È proprio questo cortocircuito tra la vacuità della macchina e il significato per l'uomo che rende la metafora così calzante. Beh, l'esempio che fai è perfetto per illustrare il mio punto di vista. L'uso di un termine come allucinazione incoraggia proprio il tipo di errore che quell'avvocato ha commesso. Porta un'interpretazione antropocentrica. Invece di vedere il sistema come uno strumento che per sua natura può generare stringhe di testo senza alcun riguardo per la verità, lo si tratta come un assistente un po' confusionario. Si pensa, si è sbagliato, ha avuto un'allucinazione, come se fosse un collega stanco che ha preso un abbaglio. Questo abbassa le nostre difese. Pensa a un manager che chiede un riassunto delle performance del suo team. Se il sistema allucina e inventa un feedback negativo su un dipendente, il manager potrebbe pensare: «Oh, il sistema si è confuso», invece di riconoscere la realtà. Lo strumento non ha alcuna comprensione e ha semplicemente generato un testo statisticamente plausibile che, in quel caso, era falso e dannoso. Questo non è un errore innocuo. Può avere conseguenze reali. Per promuovere una vera alfabetizzazione sull'IA, dobbiamo usare un linguaggio che ci ricordi costantemente la sua natura non umana, non un linguaggio che la maschera. Capisco la preoccupazione, ma credo che l'effetto sia l'esatto contrario. La parola allucinazione non è un termine neutro o rassicurante. Nel linguaggio comune porta con sé una connotazione fortissima di inaffidabilità, di distacco dalla realtà, quasi di patologia. Se ti dico che una persona sta avendo delle allucinazioni, la tua reazione non è quella di fidarti di più, ma di mettere in discussione radicalmente la sua percezione del mondo. Quindi, etichettare un output dell'IA come allucinazione non credo che spinga alla fiducia cieca. Anzi, funziona come un'etichetta di pericolo, un segnale d'allarme rosso, intuitivo e universale. Dire «attenzione, questo sistema può avere allucinazioni» è un avvertimento molto più efficace per il grande pubblico che dire «attenzione, questo sistema può produrre artefatti statistici». È un'avvertenza che arriva dritta al punto. Non sono convinta. Sottovaluti la tendenza umana, quasi irresistibile, a proiettare intenzionalità su tutto ciò che comunica il linguaggio naturale. Anche se allucinazione implica un errore, lo colloca in un quadro cognitivo. L'utente pensa: «Ok, questa volta si è sbagliato, ma la prossima volta potrebbe avere ragione, proprio come farebbe con un umano». Se invece fossimo costretti a usare un termine come errore di calcolo probabilistico, saremmo forzati a confrontarci con la natura aliena del processo. E questo ci porta a un altro punto cruciale: la questione del significato. Tu dici che emerge nell'interazione, ma così sposti il problema. Il fallimento non è di natura comunicativa, è sistemico, è matematico. Ma il linguaggio non esiste in un laboratorio di matematica. Esiste per comunicare. Il testo di un LLM è progettato per un unico scopo: essere letto e interpretato da un essere umano. Ignorare questa dimensione interattiva significa non vedere il quadro completo. Il significato, che ti piaccia o no, emerge in questa interazione. La macchina non capisce, siamo d'accordo, ma produce un artefatto che crea significato nella mente di chi legge. Quando l'output tradisce questa funzione creando un significato palesemente falso, una narrazione inventata, la parola allucinazione descrive perfettamente questo fallimento pragmatico, questo crollo dell'atto comunicativo. Il problema non è solo che i numeri dietro sono sbagliati, il problema è che la storia che questi numeri raccontano è una bugia credibile. E io continuo a pensare che, concentrandoci sulla bugia credibile, sull'esperienza dell'utente, stiamo guardando il dito invece della luna. Distogliamo l'attenzione dalla causa principale, che è intrinsecamente statistica. Un'allucinazione è il risultato di un modello che naviga in uno spazio di probabilità dove nessuna sequenza ha un vantaggio netto, magari perché i dati sono scarsi o contraddittori. Chiamarla allucinazione è come descrivere un bug in un programma parlando di malumore del software. È una metafora che nasconde la vera causa e di conseguenza ci impedisce di ragionare sulla soluzione. Se vogliamo migliorare questi sistemi, dobbiamo parlare il linguaggio del problema. Errori di modellazione, artefatti dei dati, bias. La precisione tecnica qui non è un vezzo, è la chiave per la diagnosi e il progresso. Aspetta, l'analogia col malumore del software non regge. Un bug software tradizionale di solito produce un crash, un messaggio di errore, un comportamento palesemente rotto. È un errore evidente. L'allucinazione di un LLM è qualitativamente diversa e molto più insidiosa. È un errore che si maschera da verità. Usa un linguaggio fluente, sicuro, umano. È proprio questa natura mimetica che il termine allucinazione cattura così bene e che bug o errore di modellazione mancano completamente. Non stiamo parlando agli ingegneri che devono fare il debug, stiamo parlando alla società, agli utenti, che devono imparare a interagire con questi strumenti. E per loro sapere che lo strumento può avere allucinazioni è una guida pratica e comprensibile. Trattare l'output con estrema cautela. D'accordo. Allora, mettiamola così. Se rifiutiamo allucinazione, quali alternative abbiamo? Io penso che dovremmo sforzarci di usare termini più neutri. Per esempio, fabbricazione. Oppure, ancora più preciso, artefatto generativo o confabulazione. Questi termini riportano l'attenzione sulla natura tecnologica, artificiale del processo. Fabbricazione indica che qualcosa è stato costruito, non percepito. Artefatto generativo lo lega al suo meccanismo di origine. Confabulazione interessante, perché descriva l'atto di riempire i vuoti di memoria con invenzioni plausibili, che è molto vicino a quello che fa il modello. Spostano il focus dalla psicologia alla tecnologia, ed è lì che deve stare. Vedo dei problemi in tutte e tre. Prendiamo fabbricazione. Non rischia di essere altrettanto antropomorfico? Suggerisce un'intenzione, una volontà di costruire il falso per ingannare, cosa che la macchina non possiede. Rischiamo di cadere in un'altra trappola. Artefatto generativo è tecnicamente corretto, ma è un termine da specialisti, freddo, astruso, non entrerà mai nel linguaggio comune. E confabulazione è la stessa cosa. Certo, in certi circoli si parla di confabulazione stocastica, ma chi al di fuori di un laboratorio capisce cosa significa? È un termine che crea distanza invece di comprensione. Ma forse è proprio quella distanza che ci serve. Una distanza critica. Io non credo. Allucinazione invece ha una qualità unica. Cattura la specificità di questi errori. Non stiamo parlando di un semplice dato sbagliato, come una data di nascita. Stiamo parlando della capacità di creare intere biografie, studi scientifici fittizi, narrazioni complesse e del tutto infondate, ma scritte in modo impeccabile. Allucinazione cattura la fluidità, l'apparente sicurezza, la natura talvolta surreale di questi output. Descrive il fenomeno in modo molto più vivido e, a mio avviso, onesto di qualsiasi alternativa tecnica e asettica. Nessun altro termine comunica così efficacemente l'esperienza straniante di leggere un paragrafo perfettamente scritto che descrive un evento mai accaduto. In conclusione, torno al punto di partenza e ribadisco la mia piena adesione alla tesi del materiale. Descrivere gli errori degli LLM come allucinazioni nasce da un pregiudizio antropocentrico che, per quanto possa sembrare intuitivo, è intellettualmente pigro e potenzialmente dannoso. Offusca la natura puramente statistica e, dal lato macchina, semanticamente vuota della tecnologia. Invece di promuovere una comprensione chiara, rischia di creare un velo di misticismo e false analogie, compromettendo la nostra capacità di valutazione critica. La precisione, insomma, non è un lusso, ma una necessità. E io concludo che, pur riconoscendo che si tratta di una metafora, allucinazione rimane uno strumento concettuale potente e necessario. È un termine che descrive in modo insuperabile non il processo, ma l'impatto, non la meccanica interna, ma l'esperienza dell'utente. E funge da promemoria intuitivo dell'inaffidabilità intrinseca del sistema, dove mi distacco dalla tesi di fondo e nel considerare questo approccio un difetto. Io credo sia un ponte necessario. In fondo questa nostra discussione rivela la domanda centrale. Dobbiamo capire l'IA solo attraverso la lente del suo funzionamento interno? O è altrettanto, se non più importante, capirla attraverso la lente del suo impatto sul nostro mondo umano? La scelta delle parole che usiamo per definire queste nuove tecnologie modella profondamente la nostra comprensione. Che si tratti di un termine tecnico o di una metafora potente, ogni etichetta porta con sé un intero quadro di riferimento. È chiaro che il materiale di oggi ci spinge a una riflessione necessaria su quale di questi quadri sia più utile e più sicuro per il futuro che stiamo costruendo.